noi non siamo d'accordo perché è un principio allucinante, cioè ci sono dei morosi, anziché recuperare le morosità, l'autority autorizza le aziende di distribuzione, le aziende venditrici di energia elettrica, in modo particolare l'ultima fase della distribuzione, a spalmare, così dicono, sui utenti virtuosi, quindi quelli che normalmente pagano, la morosità di altri. Noi abbiamo detto che il primo, siamo già a un eccesso di oneri di sistema, cioè tradotto paghiamo tramite la bolletta elettrica delle quote improprie. Faccio un esempio, continuiamo a pagare l'energia elettrica per agevolare il trasporto ferroviario. Questo forse andava bene quando era della fiscalità generale, erano un servizio pubblico, tra virgolette, oggi sono SPA, fanno profitti, non vedo perché noi dobbiamo contribuire ai profitti di altri. È così una serie incredibile che porta al 45, anche 46% di oneri impropri. Chi mi ascolta sa che magari ha una seconda casa, una casa dove non abita, paga 5-6 euro di consumo e 46-47 di tasse e di oneri impropri. Oggi siamo di fronte a una sentenza che esiste, ma dice che devono pagare l'onere di sistema chi distribuisce, chi vende questa cosa. L'autority non trova di meglio che scaricare sui cittadini onesti e che hanno diciamo così, necessità impellenti, perché senza energia elettrica non si vive oggi e non si lavora. Poi aggiunge una beffa ulteriore, che circa un terzo di questa morosità, che è oltre un miliardo, riguarda le piccole e medie attività o le imprese. Siamo di fronte a 4 milioni di poveri e di povertà energetica, di cittadini che non riescono a scaldarsi ad accendere la luce perché non riescono a pagare. Allora, si può discutere di un fondo che va discusso, anche la Comunità Europea ha attivato un osservatorio in questi giorni per aiutare e far fronte fra la fiscalità generale e la solidarietà alla povertà energetica. I morosi vanno perseguiti come tali, non siamo d'accordo. Noi lunedì o martedì la Presidenza Nazionale di Federconsumatori attiverà e annuncerà forme di protesta molto molto più clamorose rispetto al semplice comunicato stampa. Con questa decisione sostanzialmente si sollevano le aziende da anche quello che è il rischio di impresa, in un certo senso. Ma non solo, c'è anche una situazione che speriamo di no, ma incentiva anche a non pagare ulteriormente, no? Perché se io sono moroso, anziché intervenire sulla mia morosità come piccola impresa o come azienda, scopro e vengo a sapere che la mia morosità verrà spalmata e fatta pagare ad altri, diciamo così, forse sono anche incentivato che a fronte di qualche difficoltà economica che esiste, che sappiamo esistere anche per le piccole e medie imprese, le attività commerciali, artigianali, ma è un invito ulteriore ad essere morosi. Cioè, non può durare in Italia che facciamo sistematicamente pagare ai pochi noti, penso a chi ha bisogno di studiare con l'energia elettrica, che già è in difficoltà, appunto, 4 milioni sono povertà energetica e altri 4 sono vulnerabili, o un anziano, o uno che ha bisogno di energia per le cose vitali, ma a questi qui vanno aiutati. Cosa diversa è chi è moroso e chi non paga, ci sono gli strumenti per la morosità, come per la multa, come per chi non paga i contributi all'INPS, come chi non paga, cioè si fanno altre procedure, non un prelievo forzoso dalle tasche degli onesti. Quindi insomma la morosità di cui stiamo parlando non è quella incolpevole, ma è quella colpevole, no, diciamo. No, tant'è che Federconsumatori ha detto e sostiene da tempo, e ripeto, la stessa Comunità Europea, la Commissione Europea il 29 di gennaio ha istituito e ha presentato un osservatorio proprio per vedere quanti e come sono soggetti oggi a una morosità incolpevole, comunque a una cosiddetta vulnerabilità energetica, povertà energetica. Quelli lì dobbiamo trovare forme per sostenerli, perché è vitale oggi avere l'energia elettrica per qualunque cosa e per qualunque attività, forse quanto l'acqua diventa un bene essenziale. Cosa diversa è i morosi, e soprattutto anziché aumentare a me, a lei, a chi ci ascolta, che onestamente paghiamo la bolletta, perché non togliamo da quel 46% della fatturazione che ogni volta che ci arriva a casa la bolletta voci improprie, le cosiddette oneri o accise come sulla benzina che ancora paghiamo la guerra di Etiopia, quelli lì scarichiamo su altre forme, su altre voci della fiscalità generale e ripuliamo la bolletta, non che ce ne mettiamo un'altra impropria. Guardi, c'è un'arrabbiatura da quando è uscita questa notizia e da quando noi abbiamo preso posizione il pomeriggio, noi veniamo sistematicamente sommersi da proteste, da gente che ci chiede fate qualcosa, non ne possiamo più, e lunedì annunceremo altre iniziative. Prima ha nominato l'acqua, io mi ricordo che ai tempi del referendum sull'acqua pubblica emerse emerse proprio il fatto come alcune multi utility, come dire, prediligessero la remunerazione del capitale, cioè i dividendi, sì, per i privati. 7%, esatto. Ecco, esatto. Cioè, si faceva impresa con i soldi dei nostri, dei cittadini, cioè, perché qualunque risultato portava a casa l'azienda che gestisce l'acqua, comunque aveva un garantito un 7% di ricavo. Si fa presto a fare impresa e essere virtuosi con i soldi degli altri, sotto varie forme, come chi ci ascolta sa, purtroppo quella quota di profitto è stata reintrodotta.